со скидкой на АЗС «Лукойл». Звонить по телефону 8-988-120-20-20. 8-988-120-20-20. Внимание, АЗС в Иркутске, магазинная точка «Евро-5». Магазинное топливо Евро-5 зимнее по 48 рублей, а также масла и смазки. На территории есть стоянка и ремонт трассы. Находимся на Курское шоссе, поворот на ГИБДД, небольшая дорога, стадо 20. Hola. Attenzione, 10 K. Guarda. Amico. E chi è? Avanti. Hola. È dall'altro. Ci com'è? Ci com'è? Hola. Tu ci sei? Attenzione, 10, c'è qualcuno? Antonio, ti stanno chiamando. Ehi, AK, chi è che chiama? Avanti, perché c'è un po' di QRM. Certo, Antonio, ci sei. Sono un punto dove c'è il QRM alto, sono. Non riesco a sentirlo. Avanti, chi chiama Antonio? Io, tu. Antonio, ti senti? Ora ti ho sentito, perché c'è il QRM alto, capito? Sono in movimento, sono. E c'era un altro ancora che ci sta chiamando basso. Già lo so che mi stanno chiamando basso. Avanti su 10. E che Luca sei? No. Non ti ho capito chi sei. L'ha fatta Turchia. Scappa. Forse non prende da qua, non lo so, zona negativa, perché sono in macchina. Sto uscendo di testa con un microfono Alan 16. Non riesco a... Ah, c'è Danilo, sei? Sì. Cazzo? Vabbè, Dani! Vabbè, sto uscendo di testa, non so, qui devo un microfono, dice. Io sono in barra mobile, sono. E adesso mi senti, Anto? Sì, che ti sento. Sono Carlo. Non so se sta andando questo cavolo di antenna. Va Carlo. Segnale me lo puoi dare, Anto, in radio? Ma sono 6, no, per Radio 5. Ok. Perché prima ti sentivo a tratti, forse eri in una zona dove non prendeva bene. QRM alto. Sì, anche qua si sente. Boh, allora dovrebbe essere tutto a posto. Gappa. Dai, che è a posto. Quindi sei in girella, Anto? Sì, in girella. E io a casa mi mettendo un po' a posto, perché avevo attaccato la lavatrice, quindi ho portato dentro tutto. C'è vento, l'ho asciugata in un attimo. Gappa. Ok, dai, io faccio un attimo di bianco, ce la risentiamo dopo. Eia, va bene, Anto, a dopo. Gappa. Torno. Chi c'è? Alto, tu sì. Ore. Passo, ti sento. Sono Carlo. Ah, Carlo, tu sì. Yes. È un po' strano, è una radio un po' strana, ti sento. Buonasera comunque. Buonasera, tu mi stai avvisando qua, Santiago 9, Radio 4, c'è cioè molto QRM. Ma non ho QRM io, boh. Ok, niente, ne ho 3-4 massimo in QRM, da 3 a 4. Da 3 magari di più, forse, perché senti in alto tu. Sarà, adesso come mi senti? Meglio, Tore? E adesso sei più chiara, la radio è più chiara. KK, il 140, capito, è l'abitudine di iniziare a parlare col microfono troppo vicino, capito, e poi mi ricordo e allora lo stacco. Adesso c'è Santa Cocette e la radio è buona, dai. È meglio così, dai, meglio così. Niente, mi stavo facendo un po' di ascolto su, insomma, su quello che si può sentire, giusto per passare un po' di tempo tra le faccende domestiche, capito? Tanto è ventoso oggi. Ma io, a dire la verità così, stavo passando proprio all'avanti e ci accendeva per un po' chi c'è. E dicevo che ho sentito una portante e pensavo che fosse Antonio di metterli tutti. Ma stavo così, mi passando, era annoiato, dai. Antonio l'ho sentito 15 minuti fa, era in giro in macchina ed era a Sant'Orsola, però mi ha detto faceva un attimo di bianco e poi avrebbe ripreso da casa, forse stava rientrando a casa, era in macchina. Ah, ecco, magari ce ne ha poi che già entra dopo, dai. Ok. Va bene, un attimo il telefono qua. Ehi Iatore, non ti preoccupare, tanto anch'io sto facendo delle cose. Ci sentiamo più tardi nel caso. Ciao Iatore, a più tardi. Allora, d'accordo, ciao. Ciao, ciao. Ciao Iatore. Pieno segnale, questo chi sei? Ehi, stavo provando il microfono, l'ho acceso adesso, è fredda. Ciao Carlo. E allora Cla, come va? Tutto a posto, niente in ordine. Va bene, no, mi l'ho acceso adesso, La gemella della tua sto usando, però a freddo questa, da pochi watt. Esatto, come l'accendi da poco, io questa già ce l'ho accesa da più di un'ora, diciamo a portante fissa intorno ai 9-10 così, e poi quando parlo va a 40-50. Anche questa mia portante muta 10 watt, quando parlo va sui 40, però ti ripeto, l'ho appena accesa. Il segnale mio com'è? Sempre uguale? Sì, abbastanza forte. Sul 9 comunque, no? Dalle parti tue. Sì, un po' di più del 9, sì, dai, va bene. E KK. Va bene, io mi... Stasera facendo un sacco di cose perché avevo attaccato il bucato e già asciutto perché c'era vento, portato tutto dentro e quindi un po' stirato, un po' piegato e così sono a posto, non ho niente in giro. Perché stasera si mette una bella ponentata, così hanno detto, quindi speriamo che non faccia danno come quelle maestrale che ha fatto l'altra volta, e mi ha sradicato tutta la verandina in legno. Sì, ho sentito anche io, oggi e domani dovrebbe fare, insomma, non so se maestrale o altro vento, tipo tramontana, e fa danno se è forte, speriamo di no. Alle statistiche dovrebbe essere ponente, una bella ponentata, infatti c'è un'allerta meteo per quanto riguarda il mare, che ci sono delle onde abbastanza alte e sembra che non arrivino neanche navi, non lo so, bisogna vedere, comunque stiamo a vedere, dai. Ascolta, la radio va bene, sì, come modulazione? Sì, già sta andando bene. Niente, adesso ho attaccato solo questa e l'altra l'ho lasciata scollegata perché oggi avevo da fare e quindi diciamo non mi sono attentato a controllare quei cavi eccetera, e per adesso gli ho fatto questa, l'attacco diretto, e buonanotte, adesso utilizzo questa visto che l'ho presa. Hai comprato quella e usi il baracchino, scusa, usa quella lì, fai andare quella, anche se quella tiene ferma, non le fa niente, non è una delle poche che subisce danni, però usala quella lì e poi il baracchino con calma si vedrà, magari mi avvicino io una di queste mattine, ci prendiamo un caffè e ti faccio gli ispezioni nuovi. Il cavo è arrivato, sì, il cavo già mi è arrivato, però c'è un po' di vento eccetera, quindi per adesso ho lasciato tutto com'era. Appena passa questa ondata di vento, ho sentito addirittura raffiche sino a 100 km orari le previsioni in Sardegna. Sì, te lo sto dicendo, a me me l'ha detto Eugenio, che lavora al porto, e quindi me l'ha detto, dice che non sono previste navi, partenze di navi, proprio per questo problema del vento, ho capito, vabbè, del resto è inverno e ci sta pure qualche giorno che insomma faccia brutto tempo, dai. Ieri notte ha piovuto tutta la notte, è iniziato dalla sera, intorno alle 8 di sera ho visto che pioveva, e poi sono andato a letto intorno a mezzanotte, stava sempre piovendo, fino a stamattina penso abbia piovuto perché era tutto bagnato in strada eccetera, poi si è asciugato tutto, però se fa così già va bene, senza fare danno, non troppa acqua, e però sempre facendo. Ma tu non te ne accorgi perché sei in città, ma vieni qua, ci voglio gli stivali, ci voglio per il giardino, tutto pieno d'acqua ancora, ha piovuto tutta la notte, piovendo alla grande. E anche stamattina, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Io stamattina mi sono alzato alle 6 per andare in bagno e stava, ma diluviando, però, non piovendo, diluviando. Già lo so, purtroppo voi siete in città, io qua già me ne accorgo, anche perché io ho le pensierine negli sportelloni esterni per riservare un po', e quando batte l'acqua fanno un casino di Gesù Cristo. E anche qua nelle serrate, perché le abbasso la notte, si sente un bel, e forse c'era anche gradine stamattina. Non lo so già, io ho visto tutto il giardino allagato e poi l'acqua che era abbastanza forte ieri notte. Vabbè, ok, 5 minuti per me di quel X, perché non so, aspetti, a quest'ora devo organizzarmi il calore, poi c'ho anche da fare roba in cucina, ma comunque quello non è un problema, intanto adesso attacco la cucina e poi già sono qua che vi ascolto. Carlo, cambio per te, dai, fai compagnia un attimo a Gianni. Certo, fai pure, Cla, non ti preoccupare, già siamo qua, io sono al computer, ho finito le faccende domestiche e quindi adesso un po' di relax. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ok, già sono qua. Cava, ciao Claudio, dai, buon corriccio allora. Avanti Carlo. E allora Gianni, lo stavo dicendo a Claudio, vento, peso, e dice che faranno raffiche fino a 100 km orari tra stanotte e domani, capito? E va bene, noi viaggiamo dentro casa, già non ci porterà via, capito? Secondo me sono usciti corrotti. E un tempo si diceva così, tutti i rigurrudi in giro ci sono, quando c'era molto vento. Cappa, no. Vabbè, comunque, già c'è da temere in questo periodo, per carità. Troppi danni, cavolo, quel paese che sta franando, sono disperati, hanno perso tutto. Io, guarda, mi metto le mani in testa io a sentirlo. Oia, niente, meno, poco fa è entrato Antonio, poi è entrato Ottore un attimino, poi doveva rispondere al telefono, e niente, un attimo è entrato Claudio che aveva appena attaccato tutto. Niente, io sono così al computer, adesso guardandomi un po' di notizie, capito, notizie sportive, notizie sui colloqui che si stanno facendo in Qatar tra Stati Uniti e l'Iran, non se ne capisce più niente cosa vogliano fare. Vabbè, aspetta che se riesco ti mando una cosa. Ehi, tranquillo, già sono qua Gianni, se ti serve qualche attimo, no, non mi devi neanche avvisare, fai pure bianco se vuoi, e poi già sono qua io in ascolto tanto. Poi si spegne il telefono, non comprendo perché. E a volte si spegne qualche aggiornamento oppure la batteria. La batteria è in carica, a parte che è ancora a carica, e l'uomo si carica di nuovo. No, non è la batteria, adesso sta riaccendendo. E a volte lo fanno certi telefoni, anche il mio ogni tanto fa le bizze e poi si rimette a posto. E sono fatti per durare 5 anni. Le batterie prima duravano molto di più, adesso con questi telefoni, questa nel mio telefono durava anche 2 giorni, non è che io ne faccio largo uso perché non mi piace molto stare sempre attaccato al telefono, adesso che ci sia o non ci sia, massimo ti dura 1 giorno e poi la devi ricaricare. Carlo, ci sei? Sì Gianni, t'azienda, sto guardando quello che mi hai mandato. Ah, stasera l'ho fatto, in un contest. Quindi la cantata l'hai già fatta? Sì, certo, dalle 4:30 sto cantando. 3:10. Avanti. Sì, buonasera a tutti. Gianfranco, mi potete dire come sto uscendo, che sono deduce dalla solita bufera. Ma io sto uscendo bene Gianfranco, radio buona, segnale buono, va bene, l'hai messa a posto quell'antenna? Sì, è questa che sto usando, neanche messa, so già fatto 2 o 3 tempeste, ma cioè siamo all'ordine del giorno. Stamattina c'erano le antenne piegate che era uno spettacolo, sempre il solito vento, sempre a raffiche, potente, poi si attenua, adesso non ce n'è, dice che poi sarà peggio, insomma quest'anno sta facendo di tutto. Quasi 9:20 Radio 5. Sì, aspetta che guardo, sono 5 watt credo, sì. 5 watt, tu arrivi come al solito, sempre bene, Carlo lo stesso, quindi evidentemente per adesso ce la siamo scampata. Guardi, sei arrivato 9:10 con picchi positivi, radio buona, ottima direi, tutto a posto. Sì, vi siete un po' sovrappopolati, ciao Carlo, mannaggia. Poi ti viene il mal di gola, non se ne fa, una cosa micidiale. Sì, stamane era forte, adesso se così come stavo dicendo che neanche le navi partono, stanotte ci sarà da divertirsi. Io ho sentito al TG3 regionale dire che stanotte, tra stanotte e domani dovrebbero esserci raffiche fino a 100 km orari. Speriamo non faccia danno. Ecco, avanti. Buonasera a tutti, Luca da questa parte. Ciao Luca, stavo proprio pensando a te, però parto dalle navi, Luca sarà in casa da Donieti. Porto Torre su Genova di stasera è tutto regolare. Parte, ma non si sa a che ora arriva Genova. Scusate, ma sto mangiando anche un mandarancio. Mentre da Genova stasera parte, ma non viene a Porto Torres domani mattina, perché prenderebbe maestrale di brutto e fa il giro esterno della Corsica, quindi passa tra la Corsica e l'Italia per intenderci, e domani mattina attracca a Olbia, perché una volta che entra sotto costa all'acustica, che è bella alta, rimane al riparo del maestrale. E quindi per adesso il casino della nave è quello. Situato l'evento, domani allora il pranzo, dopo pranzo dovrebbe essere generale la meteo con raffiche di 75-80 km orari. Grazie, ma cos'è il maestrale o poi? Maestralata forte. Vabbè. Già si passerà anche questa, speriamo di superarla con le antenne. Antonio. Ciao Antonio, dove sei? A Conforzola. Avanti per chi vuoi, dai. C'è Carlo, c'è Luca, ci sono io. Insomma, vai per chi vuoi. Gaffa, saluto di Luca, saluto di Carlo. Saluto un po' a tutti, dai. Ah, si intendi, la stazione Bombolo, Gaffa Gaffa. Buonasera. Ciao Antonio, sempre in girella sei, ah. Ciao Luca, Gianfranco, se prima non mi avevi sentito, ciao, segnale tuo era 9+10 con picchi positivi, quasi 9+20, dai. La radio è buona comunque. Sì, grazie, grazie Carlo, ti avevo ascoltato. Tu arrivi sempre bene. Anche saluti anche ad Antonio Mobile, arrivi molto bene. Non so, non ho capito dove sei, però arrivi bene. E anche a Luca, che Beatrice si sta mangiando cos'è, un mandarino. Tutto lì. A chi rilancio? Boh, Gianni, riprendi tu, io non ho voce già, quindi rimango in ascolto perché finché non mi passa sta tosse c'ho la voce che va e viene. E lo so, l'ho passato anche io, Gioffra. Tosse secca, te ne esco lui che quando tossisci, cuia, l'ho passato anche io. Non riuscivo più a cantare, ecco il periodo, ero disperato. Antonio, dove sei diretto? A casa, adesso sono alla Buginuzzi, sono. Dopo farsi accendiamo il drone, vai. Che c'è l'antenna che c'ha freddo, deve scaldare. Così, ma la stufa è attaccata. Ah, tu devi staccare la stufa. No, la stufa, c'è freddo, c'è la sera. Qui si può la stufa. Ah, così. Che allagava. Dai, la stai arrivando bene qua. Capo, sono qua la Buginuzzi, sono. Vabbè, sei vicino, però prima avevo difficoltà di andare ad ascoltarti a volte, invece adesso ti sento bene. Roba seria. Cosa hai messo? L'antenna nuova? Sempre quella. Ah, non avevi messo quella che ti ha toccato? Sempre quella lì. Quella pompa, io mi ricordo che tu la usava quando andavo a lavorare con quella Peugeot e pompava un bel. Vita già, roba seria. Una frustavera, Ma c'è qualcuno che ci ha chiamato? No, c'è sbra. E bene, Carlo. Stavo sentendo la tua canzone, Gianni. Bella la canzone. Ottima direi, bravo. Grazie. Ho preso la più. Eia, ciao Luca, beh, già rientrato sei. Qualche giorno andiamo al karaoke, Carlo. Come, Anto? E qualche giorno andiamo al karaoke. Eia, dimmelo prima però, perché io tra qualche giorno riprendo a lavorare. Poi a marzo mi prenderò un'altra settimana, me l'hanno già accordata, dal 7 al 14 di marzo sono in ferie, capito? Però a volte c'ho qualche giorno anche di libero, riposo, quindi se capita volentieri. Sì, andiamo il sabato, andiamo. Ma io il sabato a volte lavoro pure, capito? Io a volte lavoro anche sabato e domenica, secondo dei turni. Gappa, gappa, dai. Dai, sono arrivato alla mezz'ora. Ci sentiamo, ciao ciao. Va bene, tu, a casa. Fra un po' riprenderò la casa. Va bene, tu, c'è problema. Avanti Gianfra, la voce è tornata a te, prenditi una di quelle caramelle all'eucalipto. Oh, non fanno un tubo qua. Ciao Antonio, buona serata. Anch'io mi allontano, devo passare al piano di sopra a fare una chiamata. Mannaggia, niente, tutto lì. C'era anche chi c'era poi, boh, non me lo ricordo più. Vabbè. Gianni, ti rilancio a te così fai girare, che magari c'è la memoria un po' più fresca della mia, che mi dimentico da un momento all'altro tutto quanto, perché nel frattempo sto facendo anche altre cose. Mi ha detto che canti, ma canti musiche dell'epoca recente, cioè recente, degli anni nostri, dai, quelle famose, oppure musiche così? Tutte, tutte, sia quelle degli anni nostri, sia quelle di adesso. Quelle che mi piacciono, faccio anche a mano, tutte quelle canzoni lì. Ne faccio diverse, dai. Quelle che mi piacciono, me le studio e le faccio. Mi piacciono molto i Tazenda, i Modà, tutte quelle musiche lì le faccio, arriverà, tutte con un pittore, faccio gli 883, insomma un po' tutto. Va bene, dai, comunque c'era Luca, avanti Luca. Sì, sono qua in ascolto che mi riordino un po' le cose. E niente di che. Gianfra, se stai chiudendo, buon corretti, dai, ti passo Carlo, qui ti dai saluto. Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto, quando capiti in questa frequenza ci fa sempre piacere, dai, buona serata di nuovo. Grazie, grazie a tutti, buona serata, ciao, alle prossime. Ciao, ciao Gianfra. Siamo rimasti noi solo, se non riprende Antonio siamo solo noi Carlo, così confermo. E c'è Luca in ascolto, sta facendo qualcosina, io e tu. Sì, Antonio ha detto che riprenderà dopo quando sale a casa e già entrerà qualcun altro pure. Ma spiega che c'è stato un break lontano, avanti quel break. Buonasera, io sono giù da Litto di Soto, mi sto sentendo alcuni, vabbè, sto facendo qualcosa per ricevere di più. E qua c'è Santiago di 4,5, la radio è 2, dai. Sei basso, ma che antenna stai usando? Sono piccolino, sono. Il bastone di troppa. Allora sento bene il cantone, sono anche l'antone. Ah, ho capito, dai. Tanto io non ci ricordo. Venditi un'antenna anche, guarda, va meglio un'antenna di macchina che quella lì, te lo sto dicendo. Se tu metti un'antenna di macchina arrivi più forte. Ti metti la Turbo 2001, è come se avessi la Mantova, su una piastra di acciaio, vedrai come arrivi. Avanti Carlo. Non lo sento io già, non so cosa dirti perché io non lo sento per niente. C'è un po' di QRM e quindi lui è al di sotto, ovvero la lancetta che si muove, non so chi sia. È il Vito di Sorso, è amico di Antonio Bobolo. Ah, cappa, non so se lui mi senta, però qua arriva, non arriva niente, capito, né voce, solo un piccolo segnale, si vede quando schiaccia la portante, però non si sente niente. E vabbè, qua per me è la zona positiva, quindi li sento, però è basso, dai, avanti Vito di nuovo, avanti l'amico di Bombolino, ma non parla più. Ah, sì, adesso, che antenna sta usando già? Quelle che sembrano Mangalello, ce le presenti, non mi ricordo come si chiama. Le avrò a Cantuglio, perché c'era Cantuglio quell'antenna lì. Tipo bazooka, ce l'ho anch'io, ce l'avevo qua fino alla settimana scorsa. Prima di mettere questa avevo quella, avevo usato quella della macchina, andava molto meglio, hai ragione. E avanti, avanti. Avanti, Vito, Vito ti chiami. E prenditi un'antenna come ci devo, qui dalla campagna lì hai tutto libero, quella zona è buona, perché se sei sulla strada sugli Bidriazzi lì, la, diciamo che la zona è buona, perché c'è Calvino che arriva fortissimo a tutte le parti. Ah, la chiesa di San Michele, ho capito. Vabbè, comunque è ancora meglio, perché lì dovresti arrivare più forte a me, perché sei più vicino. Ah, vabbè, lì mi arriva abbastanza bene, lo sai. Vabbè, va. Devo prendere tutti questi, mettere una vitamina, perché... Ah, e adesso non c'è problema, io ti sento, è che Carlo non ti sente, io ti sento tranquillamente. Antonio dovrebbe entrare adesso, mi è arrivato a casa, ha detto che entrava subito. Lo so, lo sto aspettando, però quando arriva andava pizza, andava pizza, dove consiglio che era più forte, quindi sarebbe la pizza. Carlo lo sento, non tanto forte, però... Tu sei 4 e mezzo, quasi 5, non ci arrivi a 5 di segnale. E la radio ti posso dare 3, però è comprensibile, se non c'è QRM è comprensibile. Antonio, non l'ho ancora vista l'antenna che ci ha messo sulla macchina, ce l'aveva un'altra, adesso ne ha messo un'altra ancora. Vabbè, riprendi Carlo. Ho sentito qualcuno fischiare, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. No, era di Splat. Allora era qualcuno nei canali adiacenti, sarà qualche sblattero forte. E niente, io Vito da Sorso non lo sento per niente. Vabbè, io sono con l'antenna non sul tetto ma sul poggiolo e quindi capito, può essere anche quello. Poi sono tutti con le antenne peggio delle mie, e farò. Dai, se mi attrezzate facciamo una bella cosa, dai, ci sentiamo tutti bene e possiamo parlare tra... Io vabbè ti sento bene a te, però tu vedi, hai problemi a sentire gli altri e cose, è un casino. Invece se metti un'antenna che ci avevi sul tetto, sei a posto, non hai problemi di nulla, c'è un bel apparato adesso. Esatto, però devo aspettare quando si stabilizza il tempo buono e chiedere con le dovute maniere se mi fanno installare un'antenna sul tetto, capito? Certo, tu dirò che noi possiamo farlo, che praticamente ci abbiamo dato, io se vuoi c'ho tutta la legge. Eh sì, già si trova anche su internet frugando già, ma il problema è che in questa casa non c'è un accesso diretto al tetto, capito? E se no non avrei chiesto a nessuno, avrei avvisato l'amministratore a dire sto installando un'antenna sul tetto in base a questa legge così e l'avrei fatto, capito? Invece ovviamente non arrecherò disturbi perché comunque sono frequenze completamente diverse, quindi non ci sono problemi. Invece così devi passare proprio da dentro casa della gente, capito? Il casino è quello. La legge dice che se tu devi accedere per passare per piazzare l'antenna sono obbligati a farti passare. Attenzione Brecco, vai Antonio, mica ce l'hanno con tuo risorso. Buonasera a tutti. Anzi che viaggia ti sentiamo tu. Avanti Vito. Kappa, che c'è? Mi senti? Forse sta facendo roba. Ciao Antonio. Hola. Mica ti stai chiamando? non riuscite a sintonizzarvi nella stessa frequenza. Ti ha chiamato? Mi è mancata la corrente. Ah, cos'è un beato? Brincando. E a voglia, stiamo scaldando i motori. Eia, ma è già arrivo con la zona. Tanto infatti un'antenna di macchina ci va più forte. Quella sta bevendo. Guarda, va bene per il momento, poi vediamo. Poi mettiamo i droni, mettiamo. Vabbè. Ma Carlo per dire non lo sente. Va bene. Carlo non lo sente. Ma perché che sblattera? Perché non entri nel canale per ci sblatterarmi? Cappa, vai! Ora! Minchia! Sta scaldando! Già si sente, Antu, già si sente, segnalone sempre qua! Come Gianni mi stai arrivando, mi! Che mai non sono attaccato, io sono già 12 watt! Gianni, tu mi arrivi 9.20 con diciamo picchi positivi e Antonio uguale. Arriva con questa palla, Gianni sta arrivando a palla 10. Guarda adesso Carlo, come ti arrivo adesso? E adesso sei aumentato, 9.30, capito, buono. Vai, molto grosso! Ora, vai! Pompa, Anto, pompa! Ah, ma parla tu, vediamo se ti passo. Lo passo? Gianni passa, Gianni. Questo passo mi ha tutto quanto un'ora di grappolo. Ehi, aspetta che sta scaldando, aspetta. Fallo scaldare, fallo. Comunque Gianni, tu hai sempre avuto un ottimo segnale, capito? Anche sia quando ti sentivo dalla macchina, sia quando abitavo nell'altra casa, capito? Sempre segnale bello, costante, radio pulita, radio ottima, capito? Evidentemente la tua posizione è buona. Sì, senza ombra di dubbio, su certe zone è buona, ma su certe altre magari di meno. Magari sui paesi, dalla parte dei paesi, dopo le gallerie, arrivo sino a un certo punto, sino a un paese, e poi, vabbè, sono arrivato anche a Umbria, però era propagazione, me l'ha detto un camionista che sentiva solo a me che rilanciavo, praticamente sentiva solo a me. Kappa, sì, evidentemente l'antenna è messa bene, capito, zona aperta e la zona è favorevole, capito, a fare anche collegamenti nei paesi intorno a Sassari, capito, e io lo stesso quando ero nell'altra casa tranquillamente sentivo Sorsoli, sentivo tutti, Sorso, Porto Torres, a volte sentivo anche Bonnannaro, capito, ho sentito Ozieri tante volte, parlavo con Luigi, mi ricordo, insomma tutti i paesini, sino ad Alghero, Castel Sardo, Isola Rossa, ne avevo collegato tanti di paesi, capito, Alghero ovviamente, Ittiri, capito, più o meno sino anche a Coso, Florina, che c'era Claudio, non l'ho più sentito, Chiodo Arrugginito, non si è più sentito. Lui c'è scritto a un club dove fanno DX, probabilmente si sta divertendo a fare DX in quel club lì. Hanno dei nominativi particolari, sembrano radioamatori, hanno cioè la sigla, capito? Sì, mi ero iscritto anch'io a quel radio club, capito? Me l'aveva fatto fare proprio lui, Claudio. No, solo che, capito, io ci vado anche là a sentire, ma non c'è mai nessuno, capito? A me non mi piace iscrivermi in associazione, roba del genere, a me piace stare libero, dove voglio andare vado, non mi voglio legare a nessuna associazione. Ci sono stato tanti anni in associazione Radio Club in Nord Sardegna, ma ti parlo di tanti anni fa che ero un ragazzino, figurati, ero iscritto, ma frequentavo lì, c'erano tutti i cibi, ci facevano pizzate, e mangiate di fainé, caccia al tesoro, gitte, di tutto e di più. Sì, io mi ero iscritto a questo Radio Club Whisky Mike di Marsala e mi avevano mandato la tessera che c'ha il numero, capito, 2136, capito, e poi ti danno il nominativo 165 Whisky Mike 150, capito. Praticamente tu fai la chiamata quando ti dicono, ah, tu dici Whisky Mike 165, 150 operatore Carlo, niente, però un periodo sì, con Claudio siamo entrati su 27650, mi ricordo, con la banda laterale, ma poi non si sente più nessuno. Magari è tutto, si paga pure, è vero questa roba. No, è tutto gratuito, già, avevo mandato una mail, lui mi aveva dato un indirizzo, adesso non mi ricordo se mi aveva dato un numero di WhatsApp, avevo scritto a questo che era tipo il presidente o qualcuno del club, no, e poi dopo tanto mi aveva mandato un'email che aveva ricevuto la mia richiesta, che è appena possibile, e poi mi aveva mandato la mail con questi file allegati e mi ero stampato appunto questa, la mia sigla e insomma il tagliandino che ti mandano, capito? Avanti. Luca, sono intorno ai 30 MHz, quindi frequenza alta. Mi ha chiamato in banda laterale Renato di Via Roma e mi ha detto, ma come mai non sei più venuto a prenderti il panino, quello a tre piani di piazza a te? E ha detto, Renato, gadietta, cosa ti posso fare? Sì, ma io qua adesso, se tu smetti di comprare, tocca licenziare qualcuno perché mi sta mancando un bel ingresso. Ma perché modula, Renato? Chiama, io qua lo trovo sui canali alti, sui canali bassi, in Dugnarugo, tanto basta che seleziono io, che seleziono con salsa rosa e lui automaticamente mi fa cheeseburger con capriccio e patatine fritte. Che cosa stai usando di apparecchio? Un Kenwood? No, Kenwood c'ho il coso per farmi la barba. No, la 48 col microfono, quello strano. Perché allora è come ti avvicini, perché satura a voi, ti satura a me. Antoso, gumagnendi, coso, mandarancia, uffa, per calmare la fame. Mi sono affettato anche un finocchio per ingannarmi, per dare la sensazione di mangiare, e invece stai mangiando coso, finocchi che non valgono a nulla. Però almeno la pancia sente che qualcosa la stai mettendo sotto i denti. Se no, in oggi, addio dieta, vado a fame. Ma oggi a pranzo due petti di pollo sulla piastra, senza pane, senza condimento, senza nulla. Io sono qua, però sto, come ti ho detto lui, al telefono, sto seguendo un attimo la cucina, ma vi sto ascoltando, ci sentiamo dopo, vai già. Sì, va bene, ecco, comunque dicelo. Ma la dieta non si fa così, si deve diminuire perché il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti. Io diete ne ho fatto diverse, sono sceso anche 50 kg in un anno, non ti dico altro. Il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti, dobbiamo solo diminuire le cose, per dire mangi mezzo panino svuotato dalla bollicca, 70 grammi di pasta, se mangi la pasta non mangi il pane, si deve regolare così, però lo devi eliminare tutto. Allora, è esiste la dieta di mantenimento, e quella è la dieta sana che stai descrivendo tu, dove si mangia un po' di tutto perché il fisico ha bisogno di apporto di tutto, di quelli che sono i carboidrati, le proteine e tutto il resto, ma quella è la dieta sana di mantenimento, cioè per non ingrassare, la corretta alimentazione. Per scendere bisogna serrare la bocca, non c'è niente da fare, e io ho fatto taglio del peso per rientrare in categoria tante volte, perdendo 10 kg in un mese a uffa, sudorina, corda e petto di pollo, e per cui uno, se ha un obiettivo di perdere quei 10 o 15 kg, chiude la bocca per quel periodo, fa un pasto di sbrago, che di solito io lo faccio coincidere col sabato notte, dove mangio quello che voglio, perché succede questo: il fisico, se vede che tu non stai mangiando, se ne va in protezione e inizia a non bruciare, perché cerca di conservarsi il massimo possibile delle riserve che ha sotto forma di grasso. E allora tu, una volta a settimana, gli fai vedere l'abbondanza, lui si rilassa, riprendi a mangiare pochissimo e lui va a bruciare di nuovo i grassi, sin quando non va in allarme e dice: io sto bruciando grassi, ma il tu non mangi niente. Allora se ne va in protezione e lì tu gli dai di nuovo lo sbrago, gli fai vedere la ricchezza e così fai l'elastico. Un pasto che io di solito coincide o il sabato notte, o se non sono in trullalera, la domenica a pranzo, dove faccio un pasto bello, che mi tolgo qualche gusto, dove posso mangiare più del dovuto, e poi il resto della settimana però deve essere la stecchetta, con 5 pasti leggerissimi. Io sto prendendo lo yogurt a metà mattina, lo yogurt il pomeriggio, e poi sto mangiando belga invece del pane, che sono abituato a fare le scarpette. La scarpetta uso di salata belga, sempre raccogliendo, in modo da dare l'impressione che sto mangiando pane, ma pane non è mangiare. Sì, ma poi ti viene la crisi d'astinenza. La dieta si fa piano piano, se tu la fai più per una volta, da qui ti viene la crisi d'astinenza, ti svuoti il frigorifero di corpo. Io lo so, perché ne ho fatto diverse di diete, capito? Quindi, però ho sempre seguito da dietista, da dietologo, sempre seguito da loro, e loro questo mi hanno detto: bisogna mangiare un po' di tutto, ti segni i grammi che devi mangiare. Io pesavo tutto, poi mi sono reso conto che quel mezzo panino, per dire, da 50 grammi, e mangiamo mezzo panino senza pesarlo, ma all'inizio pesavo tutto e grazie a Dio sono sceso e a voglia. Io sono arrivato a 110 kg, non ti dico altro. E io sono partito da 112 e adesso sono 99-100, ho raggiunto la doppia cifra invece di tre cifre, sono sceso da 112, ho perso 12 kg, insomma, e ma viene ancora, come dice la mia compagna, agando all'osso, io voglio perderne, se ce la faccio, un'altra decina, arrivare a 80, e a 80 sono, torno a essere un bel ragazzo. Ma non devi essere un biafrano, guarda che a me non mi riconosceva. Una volta sono andato a Città Mercato, quando c'era ancora, ho trovato un amico con la moglie e col bambino piccolino nel carrozzino, mi sono avvicinato e ho detto: ciao piccolino, e questo mi guardava male, cazzo, tu non l'ho mai riconosciuto, anzi lo bravo, già, cosa ti è successo, ma male, cosa sei, ammalato? Ma perché ammalato? Sto facendo dieta. Ah no, stavi meglio prima, e rivedo quando eri più robusto. Bianco, per me che va a preparare a mangiare. A proposito di dieta, ci abbiamo fatto un po' di più che poco avanti, io di la verità diete non ne ho mai fatto, vi sto ascoltando, mai in vita mia. Diciamo adesso sono intorno agli 82-83, in questo periodo ho aumentato addirittura a 84, ma perché sono a casa, non sto andando a lavorare, e ti mangi qualcosina in più, capito? Però però quando vado a lavorare molte volte io cosa faccio? Salto un passo, capito? Inganno con qualcosina eccetera e poi mi faccio direttamente la cena, magari non mi faccio il pranzo, e così rimango sempre intorno ai 79, 80, 81, capito? E sto molto meglio. Invece quando inizio a pesare già 84 si sente la differenza, anche se sono pochi chili, però non ho mai oltrepassato quella soglia lì degli 84, capito? Ehi, a Carlo, ma c'è chi è predisposto, c'è chi assimila molto, beve un bicchiere d'acqua e lo fa ingrassare, capito? C'è chi assimila tanto, adesso sta perdendo i liquidi Luca. All'inizio perdi i liquidi, non sono grassi, sono liquidi che stai prendendo, poi cominciano anche i grassi un po' a sciogliersi, capito? È una cosa triste, allora una volta mi metto la crisi d'astinenza di notte, per quello te lo sto dicendo, giù mai non mi mangio un frigorifero. E i liquidi sono, i primi 3 kg sono liquidi, che sono qui, i primi 3 kg li perdi la prima settimana di dieta, quelli sono i liquidi, poi il resto è importante, perché i primi 3 sono semplici, e ti dirò, più bevi e più perdi liquidi, perché se non bevi per lo stesso motivo, la distensione, e più lui se ne trattiene per sicurezza. Lo sbrano mi viene, ma più che altro per noia, perché quando sei in casa che magari sei da solo, non c'hai nulla da fare, vai a cercare in frigo, è un mandarancio, è un pezzo di quello, un pezzo dell'altro, bisognerebbe mettere il lucchetto e nascondere la chiave. E tu impara a mangiarti una mela invece che mangiare roba che ti fa ingrassare, ti mangi una mela, ti mangi una verdura, io mangio pomodori, mele, quando è così. Ma infatti mi prendo il finocchio, lo lavo, lo taglio a spicchi e ogni tanto vado, lo metto in un contenitore in frigo, così rimane fresco ed è piacevole, e vado in frigo e prendo un pezzo di finocchio. Almeno mastico, sembra che stia mangiando roba buona, ma alla fine è acqua quella. Beh sì. Vabbè. Ci aggiornerai. Se la dieta va bene, dai. Avanti. E i finocchi fanno anche bene, perché praticamente ti tolgono l'aria dallo stomaco, capito? Non ti fanno venire la flatulenza, insomma, già i finocchi fanno bene, a dire la verità. Io ogni tanto anche io me li prendo un paio e li lavo bene, li spacco in quattro, capito? E faccio come Luca, ogni tanto me ne mangio un quarto. Però così ogni tanto li vedo, dico, esci, mi prendo due finocchi, allora mi mangio.